eccezionale come al solito, il più grande fuoriclasse del mondo. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Buongiorno a tutti, sogni presi a pallonate, eh? Sognavamo una notte di Varsavia italiana, tra l'altro Varsavia è un luogo che ci evoca buoni ricordi, ricorderete la semifinale europea contro la Germania. Bene che vada, ci troveremo il Napoli, ma deve andare bene, eh? Intanto ieri Fiorentina presa a mazzate a Siviglia, il Napoli furibondo con De Laurentiis che ne ha detti di tutti i colori, e poi tutti questi colori ve li faremo sentire dopo il traffico. Platini vuole che vinca Siviglia, intanto pare che anche la Fiorentina non abbia nulla in contrario a che il Siviglia quantomeno vada in finale di Europa League. Peschiamo Pierluigi Pardo con un piede sulla scaletta dell'aereo che lo sta riportando in Italia proprio da Siviglia. Come va? Poteva andare meglio, amico mio. Insomma, serata complicata per la Fiorentina, insomma, ha la sensazione di una occasione perduta, perché nel primo tempo sono state quattro palle gol veramente colossali, nel secondo tempo invece è stato in campo solo il Siviglia. Per il Napoli chiaramente quello che è successo è incredibile, veramente incredibile, ed è uno di quegli episodi arbitrali come il famoso episodio in Bayern-Fiorentina di qualche anno fa, cioè sono quelle situazioni proprio scandalose dove dici ma com'è possibile che arbitri di questo livello possano commettere questi errori. Sì. Detto questo, insomma, io ci credo ancora, nel senso che penso che... Per quanto riguarda il Napoli? Beh sì, per quanto riguarda il Napoli, la Fiorentina mi sembra francamente un'impresa impossibile, anche se nella vita bisogna sempre credere, insomma, però 3-0 è veramente pesante, bisognava fare un gol, c'erano tante possibilità nel primo tempo per farlo, sarebbe stata credo una partita diversa. Sì, sarebbe stata una partita diversa, invece è stata una partita che Siviglia si è portato a casa contro una squadra, Pierluigi, che io tutte le volte, ieri sera l'ho visto, ho sentito il tuo commento, eccetera. Mi sembra sempre, permettimi, una squadra femmina, cioè una squadra che quando arriva lì, bella, capace di risultati anche eclatanti, ma quando arriva al dunque... Non riesce ad essere decisiva, determinante, determinata, non riesce ad avere quella cattiveria che serve per alzare un trofeo. Sì, ti dico che secondo me arrivare in semifinale di Europa League è comunque un risultato sportivo. È un risultato, cioè, sì. Nel senso che fa la fine, cioè, una squadra che vince il campionato, una squadra che vince la Champions, una squadra che vince l'Europa League, una squadra che vince la Coppa Italia. Cioè, sì. Non è che uno può fare. No, non è che vincono tutti, sono pochissime le squadre che alla fine della stagione possono alzare un trofeo, addirittura più di un trofeo. Però la tua considerazione la condivido, cioè la Fiorentina è una squadra che ha trovato una sua strada di gioco, appunto tiki-taka, grande possesso palla, una certa ricerca estetica, tanti palleggiatori nel mezzo, poi quando bisogna adattarsi a caratteristiche un po' diverse, una squadra che fa fatica, ieri nel secondo tempo si è visto con chiarezza, c'era bisogno di qualcosa di più diretto secondo me, andare a cercare anche dei cross, andare a cercare anche delle mischie alla rigore avversaria, invece la Fiorentina cercava sempre questo possesso palla ipnotico, ma alla fine anche abbastanza stucchevole. E poi anche i protagonisti, perché Mario Gomez ieri ha mancato un'occasione molto importante ed è stato sicuramente sconfitto da Bacca nella sfida fra i grandi attaccanti, perché in mezzo al campo i vari Mati, che pure non mi è dispiaciuto ma ha fallito per la grande occasione, Borca, lo stesso Pizarro quando è entrato, Badel, hanno perso la loro sfida, e insomma alla fine poi Neto ha delle responsabilità, quindi alla fine poi anche proprio i singoli hanno mancato un appuntamento che era importante. Rivedono, per essere in partita sarebbe bastato poco, perché veramente da un certo punto di vista è stato quasi sorprendente la quantità di occasioni che la Fiorentina ha avuto nel primo tempo. Io mi aspettavo una partita francamente dal punto di vista del gioco nel primo tempo più sbilanciata a favore del Siviglia, invece si poteva addirittura passare in vantaggio e fare l'1-1. Poi è chiaro che nel secondo tempo sono venute fuori due categorie diverse, ecco, il secondo tempo è veramente inquietante. Senti, Siviglia in questa Coppa è a casa sua, nel suo castello, nel suo regno, al di là delle dichiarazioni di De Laurentiis, cui io non credo, dettate dalla rabbia, non vedo perché Platini dovrebbe far vincere l'Europa League al Siviglia. Ma comunque, al di là di questo, è una squadra che è forse in questo momento la squadra più forte, no, delle quattro. Io penso che, tra l'altro, insomma, se ha a cuore questa competizione, una finale Napoli-Siviglia sarebbe bellissima. Sì. Una finale Siviglia-Dnipro, insomma, anche al punto di vista. Lascia stare. Televisivi, non solo in Italia, se io penso anche in Inghilterra. Ma è chiaro. O in Germania, Napoli-Siviglia se la guardano più volentieri di Siviglia-Dnipro, con tutto rispetto per gli ucraini. Quindi quello da fare un altro discorso, so che lo affronterete dopo, insomma, delle dichiarazioni di De Laurentiis comunque molto piccate. Ha esagerato sicuramente, però a me alla fine, ti dico la verità, un po' mi piacciono questi presidenti così, nel senso anche a me, dai. Comunque alla fine è uno sfogo a caldo, non so che cosa gli faranno, se verrà deferito da lui, non lo so, però insomma sono dichiarazioni molto forti. E appunto poi volendo se la deve prendere con Villar, che è quello che è il capo degli arbitri, o con Collina più che con Platini, ma insomma francamente fanno parte secondo me di un calcio un po' antico che a me piace romanticamente, no? Quello anche dei grandi sfoghi, però insomma il Napoli io credo che abbia ancora delle possibilità, penso che Napoli-Siviglia sarebbe una finale bellissima. Siviglia è forte, Siviglia è squadra. Ieri abbiamo visto Alex Vidal, che è un giocatore di grandissima corsa, ha fatto vedere anche contro il Real Madrid di essere in grande condizione. Bacca non ha segnato, ma praticamente il primo gol lo fa lui con quel lavoro perfetto proprio per Alex Vidal. In mezzo al campo c'è Krychowiak, che è un mastino, poi ieri era anche un po' limitato dalla maschera, un giocatore che mi piace molto. Insomma, Emery è bravissimo, Emery ieri se l'ha giocata alla grande, poi sai, come sempre nella vita bisogna anche stare un po' appesi agli episodi. Lui ha fatto una squadra molto offensiva, ha messo Alex Vidal terzino con Reyes, quindi vuol dire che ha provato ad attaccare da subito, qualcosa ha concesso, in quattro occasioni la Fiorentina ce l'ha avuta, quindi poi poi la differenza è sottile tra il buttarla dentro o non buttarla dentro, ed è quella differenza che ti porta in finale squadra, oppure no. Ma era Siviglia. Sì, si è visto chiaro. Pia, prendi l'aereo, magari proviamo a collegarci dopo, Ci proviamo. Dai. Ciao. Keep in touch. Ciao Pierluigi Pardo, buon viaggio. Traffico, poi torniamo e vi facciamo subito sentire il diluvio di De Laurentiis. Torniamo subito. Tutti convocati. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta Tutti convocati. Poi Rotan, l'apertura di qua, pronto Fedeschi. Prova il cross, secondo palo, gli arriva il gol di Seleznyov, pareggio dell'uomo appena entrato in campo, pareggio del Dnipro all'ottantesimo minuto. Cioè hanno giocato dall'inizio alla fine come delle furie, dimostrando la loro superiorità. Ma se l'altra squadra c'ha dalla parte propria un arbitro, anzi sei, allora io che devo pensare? Platini, che l'avete organizzata? Che vi diamo fastidio? Che non volete che il Napoli vinca? Che l'avete già assegnata alla Spagna anche quella? Cioè non solo la Champions state organizzando per la Spagna, ma state organizzando anche l'Europa League? Per il Siviglia. Cioè, a noi non ci va di essere presi in giro. Noi vogliamo competere con competenza, ma vogliamo che anche chi arbitra abbia la competenza, vogliamo anche che chi organizza il torneo abbia la giusta competenza. Io posso dimenticare, io pareggio una partita, non entro in Europa League, mi farà male un po' la tasca, ma l'altra fortunatamente compensa. Ma tu, ma che figura fai? Ma che credibilità puoi avere? Ciao Platini, mi raccomando, sogni d'oro. Ciao Giovanni Capuano. Io non ho parole. No, io non ce l'ho parole. Adesso anche le dico anche. Avviso a tutti gli amici juventini che stanno investendo parte del loro stipendio sudato per andare a Madrid mercoledì, lasciate stare, l'ha detto Aurelio, è tutto tutto apparecchiato. Era arrabbiato. È tutto apparecchiato. Ma era arrabbiato. Ma è così. Non lo pensa, dai. Allora, per meraviglie, crimini, misfatti di questa Eurosettimana tutta intera, non potevamo che convocare Mister Paolo Condor, ormai superstar anche televisiva. Cioè. Vigliacchi, che mi chiamate proprio a commentare una cosa del genere. Ma anche tu non andare a Madrid, Paolo, lascia stare. Ma io, insomma, ho degli amici, delle amiche a Madrid, penso che ci andrò lo stesso, anche se il risultato dovesse essere già segnato, come dice De Laurentiis. Ma non è vero, dai. Come fai a dire cose così, dai? Io sono onestamente un po' imbarazzato a commentare questa uscita, anche perché la primissima cosa da dire è che gli arbitri gli designano in italiano. Pierluigi Collina non c'entra niente Platini. E quindi, voglio dire, l'errore è molto grave. L'errore che è stato commesso sul fuorigioco del gol dell'1-1 è molto grave, ancorché io ritengo rimediabile dal Napoli in Ucraina. Sono ancora bullish sul mi piace questa alla radio del Sole 24 Ore, sono bullish. Termine di borsa, sono ancora bullish sulle possibilità del Napoli di andare in finale, anche perché ieri ha dominato la partita. No, ma poi, come dicevamo prima con Pardo, cioè, voglio dire, decidesse anche Platini, ok? Cioè, preferisci per l'UEFA avere Siviglia Napoli o Siviglia? No, ma non si può seguire questo ragionamento, però, ragazzi, stiamo estremizzando. Ha ragione Paolo, siamo imbarazzati da quello che abbiamo sentito ieri. Ieri De Laurentiis non era al bar. De Laurentiis ci rappresentava tutti noi. Ha fatto delle affermazioni che sono gravi, non sono lo sfogo, non possono essere classificate. Tra l'altro le ha fatte con una lucidità assoluta, perché noi siamo abituati a De Laurentiis che sbrocca, dice parolacce. Esatto. La conclusione sul Sidoro è molto cinematografica. Ecco, tutto molto cinematografico. Però voglio dire, allora adesso ci porti le prove, altrimenti anche la Juve ha diritto ad andare a Madrid senza dover avere delle pressioni, non si sa, dei sospetti. Comunque qualcosa di inquinato, perché io non penso che Platini questa mattina si sia fatto una risata quando ha letto queste robe qua. Probabilmente no, però vi posso raccontare, a proposito del rapporto di Platini con l'Ucraina, la frase che disse sbarcando, questa poi l'ha raccontata, diciamo, in camera caritatis ad alcuni giornalisti e mi è arrivato alle orecchie. La frase che disse nel 2012 sbarcando all'aeroporto di, non mi ricordo se Kiev o Donetsk, trovando un meraviglioso cielo grigio. Era l'inizio degli europei e lui disse in quel momento, scendendo dalla scaletta, guardando il cielo e scendendo dalla scaletta, ho pensato che se le cose fossero andate nella maniera normale, in quel momento mi sarei trovato a Roma. Ha detto, e mi è venuta una voglia di prendere a schiaffi, insomma, possiamo immaginare chi, che aveva condotto alla vittoria della candidatura ucraino-polacca, questo per dire De Laurentiis quanto possa essere simpatica l'Ucraina. No, tra l'altro De Laurentiis signora che la federazione ucraina è tutt'altro che debole, siamo deboli noi, ma non sono certo giochini cui si possono prestare gli altri. Ma io faccio veramente fatica a seguire il ragionamento, perché voglio dire, allora Platini ha questo grandissimo progetto e non l'hanno spiegato all'arbitro di Juventus Real Madrid, che comunque ha dato un rigore che c'era, però poteva anche non darlo, oppure non l'ha spiegato a quelli di Juventus Monaco, e il Monaco è espressione della Francia, e allora Platini è arrabbiato con Collina. La verità è che le coppe sono queste, vale anche per il Napoli. Ieri ha giocato una buona partita, ha avuto tante occasioni, non le ha trasformate per varie ragioni, si è messo nelle condizioni purtroppo di inciampare in una cosa di questo tipo. Paolo, vorrei virare invece il discorso sulla Juventus, sull'altra parte della settimana. Oggi ha parlato Allegri, che ormai va in conferenza stampa tutti i giorni, ma gli tocca, gioca praticamente tutti i giorni, allora alla vigilia di Juventus-Cagliari, però ha parlato di Madrid, del ritorno, ha parlato del Barcellona. La Champions ha un'atmosfera straordinaria, un'atmosfera di fascino, e quando giochi una semifinale di Champions non è che c'è 50 semifinali di Champions, ce ne sono due, e quando sei nelle quattro, se sei bravo e un pizzico fortunato, arrivi in finale, altrimenti vai fuori con una delle quattro squadre più forti che ci sono in Europa, quindi non ce ne vantaggi. Barcellona è due mesi che gioca un calcio veramente straordinario, soprattutto a quei tre davanti che sono demoniati, e quindi in questo momento credo che sia difficile giocarci contro, ma un conto è farci due partite, un conto è giocarcene solo una. Eh sì, Barcellona grande favorita di questa Champions League, tra l'altro Paolo Condomi mi pare l'abbia detto mesi fa, se non ricordo male, io ormai allora era successo avanza, ho poca memoria, ma no, ricordi bene, per mia fortuna ricordi bene, nel senso che io avevo criticato fortemente il Barcellona che aveva perso 1-0 sul campo della Real Sociedad la prima partita di gennaio, alla ripresa, dicendo che quella era una squadra che mi sembrava non andasse da nessuna parte. In quella settimana successe qualche cosa, venne mandato via Zubizarreta dalla dirigenza e non Luis Enrique, e la motivazione, tra l'altro, l'ha scritta Paco Aguilar sul Mondo Deportivo qualche giorno fa, perché era stata misteriosa, lasciata nell'ombra, perché non faceva nulla per legare Luis Enrique ai giocatori più importanti dello spogliatoio, secondo questa interpretazione. Di lì in poi c'è stato un chiarimento, perché Luis Enrique e Messi soprattutto, ma anche Neymar, proprio non si prendevano, non si parlavano. C'è stato un chiarimento e da lì in poi la squadra è ripartita. Sì. La squadra, io ti posso anche malignamente dire che forse Messi ha tentato una spallata, ma che la società ha resistito e non ha mandato via Luis Enrique, e da lì in poi naturalmente ha detto beh basta, non posso più tentare spallate perché, perché ne va dei risultati, ogni giocatore vuole vincere, ovviamente ne va dei risultati, sì, c'era stato che otterremo momento in questa stagione, e quindi da lì in poi la squadra è partita molto bene, e devo dire che anche Luis Enrique evidentemente ha un ruolo in questa cosa, se riesce a far convivere tre attaccanti che teoricamente avrebbero bisogno di tre palloni. Sì, questo sì. Però, questo è un merito evidente. Però la Juventus dal punto di vista tecnico ma anche economico, ne parlavamo ieri con Berinazzo, si sta avvicinando in maniera strutturale al bel mondo dell'Europa. Diciamo che come ranking, non il ranking UEFA che tanto vi piace, ma sì, come griglia di partenza dietro le quattro regine, Barcellona, Real, Bayern e United, quasi inutile ricordarle. Ci potrebbe essere la Juventus già in un prossimo futuro, per introiti, per organizzazione, per risultati, e insomma a Tevez hanno anche ritirato la patente nel tunnel del bianco, ma mi risulta che a Torino, dopo aver vinto con Real Madrid, non abbiano neanche festeggiato più di tanto, e questo è un gran segnale, un altro gran segnale. Beh, sai, dopo aver vinto tre scudetti consecutivi era evidente che questo doveva essere l'anno dell'Europa, era evidente, insomma credo che Allegri sia stato. Dopodiché il quarto scudetto secondo me è arrivato quasi per inerzia e per assenza totale di altre avversarie, e il valore della Juve, di questo ciclo juventino, perché ormai si può parlare di ciclo, ti viene dato da questa stagione, da quello che sta facendo in Europa. È giusto quello che dici tu, e cioè che dal punto di vista strutturale proprio loro si sono avvicinati all'elite del calcio europeo, loro adesso sono una squadra, c'è per esempio il signor Pogba. Dal punto di vista economico capisco che comunque la Juventus non può ancora superare certi tetti, e quindi dal punto di vista economico avrà sicuramente delle offerte più interessanti, più convenienti. Però dal punto di vista sportivo, quando una squadra arriva tra le prime quattro, basta, non si deve più andare. Dove devi andare di più di una squadra che arriva tra le prime quattro e magari tocchiamo ferro tra le prime due della Champions League? Non hai più questa, mentre la Juventus che stentava a qualificarsi come l'anno scorso agli ottavi di finale della Champions, allora quella era chiaramente una tappa di passaggio. Sì, c'era la voglia di andare altrove. Paolo, ma tu hai la sensazione, io trovo una certa similitudine tra questa Juventus e l'Inter del 2010. L'ho detto di tutti i colori su Twitter per questo. Ma guarda, sono stato ricoperto di insulti, ma perché la gente legge il titolo e non va avanti. Allora, similitudine intanto nella consapevolezza che aveva quell'Inter, e che secondo me in parte hanno giocatori come Buffon, Pirlo e tanti, che questo è il momento momento, fatalmente dall'anno prossimo, magari per logiche di mercato, di carta d'identità, la Juve apre un'altra fase di questo ciclo. Io non dico che apre un ciclo diverso, però in qualche modo sarà una Juventus in parte diversa, e secondo me questa è una consapevolezza Pirlo, che dà forza, insomma, che dà forza. Pirlo è stato l'uomo chiave del triennio precedente. Pirlo cammina in questo momento, ma lui stesso si dice se vinco vado via, te lo sta dicendo. Ma difatti, e io trovo una similitudine che secondo me rende pericolosissima questa Juventus per Real Madrid, Barcellona, insomma per chiunque la incontri da qui alla finale di Berlino o direttamente a Berlino il 6 giugno. La Juventus quest'anno si trova, dopo aver rivinto lo scudetto ed essere arrivata nelle 4 della Champions, si trova in quello stato di grazia, perché è uno stato di grazia ed è facilissimo perderlo, attenzione, uno stato di grazia nel quale tu sei sereno perché i tuoi risultati li hai già ottenuti e comunque vada sarà un successo. Ma assieme a questo, questa serenità ti dà la forza per andare a combattere contro le pressioni di cui invece, che invece patiscono le altre tre squadre, perché il Bayern è al fallimento. Ha vinto il campionato, ma per il secondo anno consecutivo, e la cosa mi pare ormai sicura, acclarata, esce alle semifinali di Champions. Non ce ne sarà uno che considererà felice l'avventura di Guardiola a Monaco, e quindi sono delle pressioni spaventose che hanno questi tre club, 4 col Manchester United, ecco, di cui la Juventus non ha notizia. È la differenza proprio tra sogno e ossessione, adesso, citando sì, Mourinho del 2010. Come diceva Mourinho, ma secondo me è poi più o meno il discorso che fa anche Allegri oggi, che può fare guardando negli occhi suoi. Sì. Poi dopodiché le cose, ci vogliono sempre delle congiunzioni astrali in questo, no? Le cose alla Juventus stanno andando perfettamente, perché dopo aver passato con qualche patema il girone, perché comunque sei arrivato secondo, hai pescato prima il Borussia Dortmund, squadra di grandissimo nome e quindi concentrazione massima totale, ma in questo momento in chiaro trend negativo, non dico di sfacimento perché comunque è ancora ricca di bellissimi giocatori, però alla fine della stagione Klopp va via, quindi questo ti dà l'idea di un ciclo che sta finendo. Però il nome del Borussia Dortmund era alto e quindi tu eri attentissimo. Poi hai il sorteggio fortunato, che proprio in quanto fortunato per un po' non ti, per pochissimo non ti butta fuori, come quello del Monaco. E poi hai il Real Madrid, che delle tre squadre che ti propone l'urna al momento delle semifinali è l'unica sulla quale puoi costruire una strategia di 180 minuti, perché le altre due, poi il Bayern si sono rotti tutti e magari il discorso cambiava, ma come ha detto anche Allegri giustamente questa mattina, il Barcellona su 180 minuti è impossibile batterlo, sì, non c'è nessuna possibilità. Sì, sono d'accordo. Ecco, su 90 minuti tutto può succedere. 90 minuti può succedere che Messi ha una serata negativa, che si becca un calcione al quinto minuto, che tu fai un gol e poi lo difendi. Possono succedere tantissime cose in una partita da 90 minuti. È chiaro che il Barcellona scenderebbe in campo molto favorito. Però comunque 90 minuti. Però abbiamo visto anche il Milan perdere nel modo che tu conosci e che tutto il mondo ricorda. Ciao Paolo, grazie. No, beh, ti dico ancora questa. Sì. Guarda che Hamburgo Juventus, me la ricordo per bene, dire, erano più o meno erano la stessa proporzione che ci sarebbero tra Juventus e Barcellona. O naturalmente l'Hamburgo nei panni della Juventus. Sì. E quindi sarebbe anche l'ora di anche una rivincita storica, ma anche Milan Marsiglia. Sarebbe l'ora per la Juve di una rivincita storica su una finale che tutti le davano e che invece perse, magari questa che tutti le danno per sconfitta, però scusate, arriviamoci prima. Ah, esatto, bravo. mi pare passiamo che stiamo correndo un po' troppo. Passiamo per Madrid, grazie Paolo. Ciao a tutti, ciao. Grazie Paolo Condò, sentiamo la borsa, poi torniamo a 800-24-0024 per parlare con voi. Godiamoci il momento, che è la migliore cosa. Viviamo il momento e godiamoci, altrimenti se no nella vita non si gode niente. Invece la vita bisogna che sia godereccia, altrimenti veramente siamo sempre tristi a pensare a quello che dobbiamo fare domani. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Comincia! Convocati. Sempre con me Giovanni Capuano, tra poco riprendiamo il discorso sui tuoni e fulmini De Laurentiis contro l'arbitro Moen, norvegese, per quel fuorigioco non segnalato. Sì, per tra l'altro non è uno sconosciuto, perché l'ottimo De Laurentiis ieri nei suoi 3 minuti e 11 secondi di sfogo ha anche detto: ma voi ad esempio, lo conoscete questo qua? E tutti zitti, ma perché i giornalisti erano lì a fare, stavano sapendo, tra l'altro era tardi. Allora noi glielo diciamo chi è questo: 36 anni, fa parte della categoria Elite. Per intenderci, quest'anno Collina l'ha mandato a fare Barcellona-Paris Saint-Germain, quarti di finale. L'ha mandato a fare Monaco-Arsenal, ottavi di finale di Champions League. Anche nei gironi gli aveva fatto fare il Chelsea contro lo Sporting, il Benfica. L'aveva mandato ad agosto a fare Porto contro Lille, preliminare di Champions, che insieme a Napoli e Athletic Bilbao erano i due preliminari, quelli caldissimi. Già l'anno scorso aveva fatto un ottavo di finale di Champions Bayern-Arsenal. Secondo me poteva starci dentro in una semifinale di Europa League. Giovanni, è chiaro, mi sembra evidente che arrivati a questo punto in semifinale ci stava. In semifinale è chiaro che mandi un arbitro che ha le credenziali per farlo. Questo perché ce Collina mica è fesso e Platini neanche. Con gli ascoltatori partiamo da una città di Serie A. Carpi. Antonio, buongiorno. Buongiorno, io sono napoletano comunque, vivo a Carpi ma sono napoletano. Sì. Senta, io innanzitutto volevo dire che De Laurentiis, la sua uscita di ieri sera non mi è molto piaciuta da napoletano. Anche se lo ringrazio De Laurentiis perché ha portato il Napoli dove è adesso, l'ha preso da Serie C, insomma è stato un bravo presidente, però lui ieri sera ha giocato una bella squadra, io l'ho visto in differita ieri sera su 24 e mi è piaciuta molto la squadra dell'Ucraina. Ucraina, molto, quindi lui deve fare i conti, che lui deve mettersi lì a tavolino a pensare un po', prima di parlare deve un po' pensare, lui per stare in Europa oggi deve fare una squadra più competitiva. No, però per Antonio, per eliminare il Dnipro basta questa, e io sono ancora convinto che si possa fare, cioè Dnipro non è più forte del Napoli, quindi anzi io credo ancora che delle ultime quattro rimaste, che poi sono tre, a Fiorentina non la contiamo neanche più, il Napoli sia ancora più forte, Siviglia compreso, quindi rimango su queste mie convinzioni. Se poi parliamo di piani futuri, di squadra competitiva a livelli di Champions, possiamo aprire mille rivoli, ma credo che questa squadra insomma sia più forte del Dnipro, ma di un pezzo, quindi... Sì, no. Ma il Dnipro ieri secondo me non ha neanche sorpreso, era questo, lo sapevamo, squadra tignosa, organizzata, aveva anche messo fisica in difficoltà un po' l'Inter nei gironi, però il Napoli se l'è giocata bene, ha sofferto un tempo e nel secondo, al netto del fuorigioco, e quella partita è una partita che sul campo è finita 1-0 diciamo, avrebbe anche potuto farne un paio perché le occasioni le ha avute e fra una settimana io credo saremo qui a parlare di qualcosa di bello per il Napoli e dopo che non va bene, insomma è tutto quello che è successo dopo che non va bene. No, comunque questi sono quarti nell'ormai disintegrato campionato ucraino, giocano a Kiev, sono secondi sicuro, hai guardato la classifica, dietro la Dinamo Kiev però che è stata eliminata dalla Fiorentina, quindi vabbè, comunque non cambia moltissimo il senso del discorso. Elia Catanzaro, buongiorno. Sì, buongiorno, ciao, volevo intervenire sul De Laurentiis. E niente, volevo sapere niente, si lamenta sempre, sta prendendo una strada che insomma sembra quella dell'Inter delle lamentele, sempre a lamentarsi degli arbitri, sempre a lamentarsi di tutto, si lamenta di tutto, anziché parlare sarebbe meglio fare una squadra attrezzata, organizzata con la mentalità giusta, o sbaglio? Sì, no. Secondo me questo vale più, questo ragionamento vale più per l'Italia, cioè anche a me ad esempio non era piaciuto il De Laurentiis e non solo, anche Benitez dopo la partita con la Juventus, per citare l'episodio più clamoroso, ma non l'unico di questo campionato, e lì secondo me si è un po' preso l'alibi e invece ci sarebbe da chiedere a De Laurentiis di lavorare di più su una rosa che possa essere competitiva fino in fondo con la Juventus. Su ieri abbiamo detto più competitiva con la Juventus, non dimentichiamo che il Napoli ha ancora due traguardi ampiamente raggiungibili. Io voglio chiedere a Boris Sollazzo di assumere il ruolo di avvocato difensore del suo presidente Aurelio De Laurentiis. Lo faccio faccio molto volentieri, insomma. Ma convintamente o no? Sì, sì, assolutamente. Io però premetto che le ultime uscite di De Laurentiis dalla storia del ritiro in poi sono state un toccasana per il Napoli, che ha avvertito per lunghissimo periodo la latitanza del suo presidente. Vai. Ma guarda, secondo me, allora, ci sono diverse considerazioni da fare su quell'intervento. Quell'intervento è un toccasana, quello di ieri è un toccasana, perché di fronte a un'ingiustizia così macroscopica da non poter far intravedere malafede, perché davvero incompetenza purissima, assomiglia all'autogol di Padelli. Non voglio pensare che Padelli l'abbia fatta apposta. È proprio per quello, proprio perché è sfacciata. Io ero in tribuna Posillipo esattamente in linea con il guardalino e l'ho rincorso per 30 metri urlando fermati, in piena danza agonistica, perché avendo fatto l'arbitro era evidente quello che era successo. Però una cosa del genere ammazzerebbe un cavallo, deprimerebbe, e con una semifinale di ritorno a una settimana l'unico modo per mantenere alta la rabbia, la grinta, quindi tu dici che ha fatto lo psicologo, ha fatto la sceneggiata. Sicuramente, non pensiamo mai che De Laurentiis sia uno stupido. De Laurentiis attacca Platini ben sapendo che il designatore è Collina. Ora io Collina, al di là del fatto che lo conosco personalmente, sono sicuro che non faccia il gioco del potere con la P maiuscola o delle potenze calcistiche. Certo, ci sono state tutta una serie di coincidenze che fanno pensare male su Platini, nel senso il rigore generoso alla Juventus, i due andati alla Fiorentina, in fuorigioco del Napoli. Però sono proprio quelle coincidenze che si incontrano nel calcio. Scusami Boris, io ti seguo, mi hai quasi convinto. In tutta questa ricostruzione non capisco allora che cosa pensava Platini a Wolfsburg, quando il Napoli è andato e diciamo non gli è andata malissimo a livello arbitrale. Inserendo questo tassello nel disegno, io mi hai convinto. Però posso dirti che francamente passa un'autostrada americana a 6 corsie di Guain, e il gol di ieri con due giocatori a 2 metri però, di gioco. Però Boris, se noi vogliamo ragionare su un disegno, su qualcosa, allora il disegno funziona per una serie di... Sto dicendo che il disegno non c'è e che De Laurentiis ha fatto la sceneggiata napoletana. Io ti sto dicendo il contrario. Quello che fa rabbia di quella partita è che tu devi trovare per forza una risposta ai tuoi giocatori se non vuoi perderli, perché poi i giocatori sono quelli che ricevono il pugno in faccia, che si sono visti fischiare quando loro attaccavano da quel guardaline fuorigiochi millimetrici, per poi vedere un fuorigioco di quel tipo per paura, per incapacità, perché poi tutto l'arbitraggio è stato scarso, ma scarso, era evidente che era un incompetente. Io temevo che potesse succedere una cosa del genere e dentro di me speravo che questa incompetenza andasse a nostro favore e non a nostro sfavore. È successo questo, ma tu, avendo una sola settimana, l'unico modo per non perderli, l'unico modo per non farli sentire perseguitati, perché poi questi giocatori si sentono perseguitati. Ora sul mattino c'è Raul Albiol che a Panenche, un settimanale ispanofono, dice abbiamo contro tutto il nord Italia, quindi chiaramente si sente, sì, però ma anche il nord Europa, non solo il nord Italia, ragazzi, quello soprattutto il nord Europa. Allora ragazzi, poi aggiorniamo un attimo, Boris stai lì un attimo, siamo in ritardissimo sul traffico, e poi io ho un'altra idea, che la sceneggiata napoletana non sia solo quella di ieri sera ma anche quella su Benitez. Ne parliamo subito, torniamo subito. Tutti convocati. No, io credo che ho detto che il mio procuratore è stato qui per sentire quali sono le idee del presidente, e dopo questo analizziamo tutto, devo sapere quello che hanno parlato e dopo parlare con la mia famiglia e decidere. Dunque questo era Benitez a proposito del suo futuro. Abbiamo Boris Sollazzo, abbiamo quasi raggiunto una vaga idea su cosa possa aver portato De Laurentiis, e io a me ha convinto Boris Sollazzo. Dice tanto io faccio il parafulmine, faccio un casino della Madonna, poi andiamo, li carico i giocatori. andiamo lì e ci prendiamo questa finale, mentendo, sapendo di mentire, io credo. Tra l'altro sarà soddisfatto Benitez, che è spagnolo, di sapere che tutto ciò che riguarda il suo paese in un certo senso è apparecchiato, no? Mentendo, sapendo di mentire, da una parte. Dall'altra, hai ricevuto un trattamento indegno da parte di un arbitro non all'altezza, e ovviamente un po' all'italiana, mettere mani avanti, mandatemene uno bravo la prossima settimana. È evidente che ci siano tutti questi sottotesti in quello che lui dice, ma secondo me l'attacco a Platini è puramente strumentale. Io me lo immagino che subito dopo va nello spogliatoio e dice: adesso andiamo in Ucraina, gliene facciamo tre, poi vinciamo l'Europa League e quando andiamo alla premiazione non gli stringiamo la mano. Cioè, una cosa di questo tipo chiaramente crea una motivazione in giocatori che sono chiaramente depressi. Quella è una partita che andava stretta se finiva 3-0, è una partita che comunque il Napoli doveva vincere, e con un attaccante da 40 milioni come Higuain non sei riuscito a metterne una di quelle quattro occasioni da rete dentro. Quello è un peccato originale, credo che quello sia il peccato come originale. Come sempre, cioè, non è che tu Napoli-Atalanta la pareggi per il gol di Piniglia, anche se il gol di Piniglia è apertamente irregolare. Dà un po' fastidio, e su questo bisognerebbe riflettere, che degli arbitri scarsi, se possono sbagliare, sbagliano a sfavore delle italiane, e lo fanno secondo me perché c'è un peso politico molto relativo. Contiamo più della Francia, perché Juve e Monaco erano arbitri scarsi e hanno sbagliato. Contiamo più della Germania, perché nel Wolfsburg-Napoli l'arbitro ha sbagliato, e ha sbagliato per il Napoli. Non lo so, posso dire che un errore come quello di ieri è un errore, io ripeto, avendo fatto l'arbitro, che tu fai è un errore gravissimo, che tu fai per paura, ma secondo me stacchi l'occhio, perdi l'azione, punto. Entrare, no, ma è incredibile, però, perché tu non puoi vedere il secondo magari, perché è coperto da tutti quanti, ma il primo che tenta il colpo di tacco, quello è un fuorigioco, un metro e mezzo, clamoroso, la palissiano. Il problema lì è che vedi la palla entrare e tu non hai il coraggio in quel momento, all'ottantesimo, di annullare un gol perché sei scarso, punto. Palmarès di questo arbitro è uno che qualcosa a livello internazionale diretto, cioè è uno che è molto considerato da Collina, arbitrato in questa stagione delle partitone. Senti, Io ho grande stima per Collina, ma le sue cappellate ne ha fatte. Cioè, voglio dire, non è come dire, il principio di infallibilità non gli appartiene, come non appartiene a nessun arbitro. Ripeto, io non ci vedo nessun disegno dietro, se non uno scarso peso politico, per cui se tu devi sbagliare, sbagli magari a favore di un'italiana, perché guarda che io sono più scandalizzato per l'arbitraggio che ha subito la Fiorentina rispetto a quello che ha subito il Napoli. Quello è un arbitraggio in cui l'arbitro frammentava, non puniva i calcioni di Niprensi, e su una cosa incredibile da un gol. Contro la Fiorentina c'è un arbitraggio secondo me molto più scadente, con almeno un rigore che andava dato e che cambia totalmente. Cioè, il Napoli può andare contro una squadra, sì, il Napoli va a giocarsela, la Fiorentina gli hai rovinato la coppa. Ascolta, e passerà un 3-1. Ho un minuto e voglio una risposta secca sull'argomento di qui sopra, poi tanto torneremo a parlarne. Anche quella su Benitez è sceneggiata napoletana o no, per tenere la squadra tranquilla in questo finale di stagione che conta, sapete voi quanto, insomma, non direi dirlo. Allora, è sceneggiata napoletana da parte di De Laurentiis per pararsi da eventuali critiche, è sceneggiata napoletana da parte di Benitez, che fino ad adesso ha ottenuto solo la proposta del West Ham, che sicuramente non lo soddisfa, e alla fine secondo me finirà però come sembra che stia finendo, cioè con un rinnovo. La sceneggiata secondo me sta nella quantità del rinnovo, cioè secondo me sarà un finto pluriennale con la promessa di lasciarsi il prossimo anno. Grazie Boris. Grazie a voi. Un abbraccio. E forza Napoli in Ucraina. sempre. E speriamo che chiamino un arbitro, diciamo, dal Portogallo in giù. Dal Portogallo in giù. Meglio se, non so, del Nord Africa, visto che il Nord Europa ce l'ha a morte con noi. Un greco è perfetto. Antonio da Napoli, prima di fermarci per il GR. Buongiorno, dica. Pronto, dica. Dunque, sono Antonio da Napoli. Innanzitutto sono uno sportivo, poi tifoso del Napoli. Sì. Non condivido le critiche mosse a De Laurentiis. purtroppo non ci si rende conto che ci sono in ballo un bel po' di milioni di euro, 50-60 mila euro. Quindi io penso che De Laurentiis forse è andato un po' pesante, però tutto sommato non ha ragione, perché si tratta proprio di aspetti finanziari essenziali per un percorso della società. Quindi fare queste critiche così un poco gratuite mi sembra esagerato. Ma hai ragione, hai perfettamente ragione. Ma difatti i più arrabbiati sono quelli della Juve e del Bayern, che siccome è già apparecchiata anche la Champions per le spagnole, chiaro. Come fanno? Ci fermiamo per il GR, grazie Antonio. GR, torniamo subito. Finisce qua, senza recupero il primo tempo. Gran spettacolo. Tutti convocati. La Fed ha sorpreso i mercati con il rimando della exit strategy monetaria. Sembra intenzionato a ricoprire il gap ribassista apertosi a inizio ottava. I dati deludenti anche su questo fronte dovrebbero accelerare il processo di attuazione del quantitative easing della BCE. Quando si parla di economia, hai il mal di testa? Prendi Focus Economia, ogni giorno l'appuntamento con l'attualità economica spiegata in modo chiaro, diretto, senza giri di parole e senza sconti per nessuno. Da assumersi tutti i giorni, lontano dai pasti. Focus Economia, di Sebastiano Barisoni, da lunedì a venerdì alle 17, solo su Radio 24. Arieccici. Convocati. Con me Giovanni Capuano, ascoltatore in linea 800 24 00 24. Parliamo di De Laurentiis, del Napoli, della Juventus, di questo finale delle Coppe Europee, di un sogno infranto, io credo, di, cioè quella di vestire di tricolore Varsavia, come fu quel giorno di Italia-Germania. E tra poco andiamo anche al Giro d'Italia, che domani comincia. Salvatore Cesena, buongiorno. Buongiorno, salve. Io sono un tifoso del Napoli, ovviamente molto arrabbiato per ieri sera. Trovo un pochettino quasi offensive per le vostre dichiarazioni sul allora quello che è successo a Wolfsburg, o il parlare di sceneggiata napoletana di De Laurentiis in tono volutamente quasi derisorio, perché vivessimo in un mondo perfetto, ma il Napoli era subito qualcosa di inconcepibile. E quindi perché non si può anche solo prendere in considerazione la malafede? Perché per prenderla in considerazione e dire che Platini ha apparecchiato la Champions e dire che forse sta apparecchiando anche l'Europa League, che è un po' di più di arrivare, posso dire la parola, incazzati nel dopopartita legittimamente, perché quello che è successo è grave, è un errore grave, per dire le cose che ha detto De Laurentiis, che non è il mio amico sotto il bar, ma è un dirigente sportivo, bisogna avere le prove. Cioè non si può andare e raccontare quelle cose e poi dire vabbè, ho scherzato, ero arrabbiato. Allora io mi aspetto che oggi De Laurentiis, a mente fredda, siccome evidentemente lui ha in mano più di qualche sospetto, ci dica. Cioè non è una questione, non è un mind game, a me non convince quella spiegazione lì. Cioè lui ha detto delle cose gravissime, non è il problema di dire che il gol andava annullato. Il gol andava annullato, è un errore grave, è un errore gravissimo. È un errore gravissimo, ma quello che ci attacca dopo De Laurentiis in quello sfogo di tre minuti è qualcosa che non può essere accettato a meno che non sia supportato da prove. Io propendo per il mind game. Sì, ma c'è un limite. Cioè, ha detto, mi ci metto di mezzo io, poi prenderò le conseguenze disciplinari, le reprimende del caso. Però imbarazza tutti. Cioè, De Laurentiis quando parla in una semifinale europea rappresenta un po' tutti, rappresenta il calcio italiano. Ripeto, io credo che dovesse scegliere Platini una finale dell'Europa League da far vedere all'Europa e al mondo, con tutto rispetto per il Nipro, ci manderebbe il Napoli. Se poi vuol far vincere il Siviglia, allora trovo il modo di far vincere il Siviglia, ma sto estremizzando, perché a quelle cose io non riesco a credere. Quindi non riesco a credere alla mala fede di ieri sera, perché è un errore talmente colossale che non può essere fatto in mala fede, ma per un principio abbastanza ragionevole, no? Se vuoi farla sporca non la fai così grossa normalmente. Gianfranco Napoli, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per avermi convocato. Dica. Allora, anch'io sono tifoso del Napoli e devo dire, anche se non concordo con l'ipotesi del complotto di cui parlava prima l'ascoltatore precedente, però ritengo che comunque da parte vostra ci sia un po' un eccessivo sarcasmo. Io non ricordo toni del genere quando Mourinho faceva il gesto delle manette o altro. Sì, a parte che Mourinho ha smesso di allenare per un po', eh. Io ne ho usato a pacchi di sarcasmo. O quando Marotta trovava scuse assurde sul campo gelato. Criticare è legittimo. Però posso dire una cosa? Però allora lei adesso territoriale mi sembra un po' sbagliato. Lei adesso che è informato ci dice quale dirigente, ma che c'entra, ma per carità? Quale dirigente? Quale dirigente italiano è andato in Europa a dire le cose che ha detto ieri sera De Laurentiis? Io francamente non me lo ricordo qualcuno che abbia attaccato con così tanta durezza, e tra l'altro, cioè, in maniera così precisa, ripeto, non in maniera generica, cioè in maniera precisa. Lui ci ha detto che la Champions è apparecchiata per le spagnole, ha capito? Cioè non è che ha detto quest'arbitro era in malafede, che al limite è grave, ma è circoscritto all'episodio di ieri. Ci ha detto che la Champions è apparecchiata per le spagnole. Se per lei questo è normale, io no, rispetto la sua opinione. Non è un problema. È normale dire che De Laurentiis ha sbagliato completamente nei toni e nella forma, ma la sceneggiata napoletana non c'entra niente. No, come non c'entra? Cioè, questo perché è quello che mi dà fastidio. E allora perché uscire con quelle dichiarazioni? Cioè, io ripeto, ma De Laurentiis, se avesse detto le stesse cose, fosse stato il presidente dell'Inter, avremmo parlato di sceneggiata napoletana. Sì. Cosa c'entra? Avrei parlato di sceneggiata napoletana. Io avrei fatto lo stesso, ma poi siete razzisti, perdonatemi. No, razzisti perché? Perché è stata una sceneggiata napoletana è un fatto deteriore che tirate fuori sempre quando c'è il Napoli, che non c'entra niente. No, ma non, questo non vuol dire. Ha dei toni che noi non condividiamo minimamente. È una forma stilistica, è un modo di dire sceneggiata napoletana, ma non c'è un discorso razzistico o territoriale. Tra l'altro, sceneggiata napoletana è una forma d'arte. Abbiamo anche detto che De Laurentiis ieri si è espresso anche in maniera più fredda e lucida rispetto ad altre volte in cui l'abbiamo conosciuto arrabbiato, in cui scappava dalla sede della Lega, insultava ha convinto Sollazzo dicendo che era programmato per la ragione di cui sopra, cioè per caricare la squadra, per togliere magari un po' di pressione, insomma era un mind game. Poi gli è scappato un po' di mano. Voglio andare, pronti, attenti, via al Giro d'Italia. Ivan Basso, buongiorno. Ciao Ivan. Buongiorno a tutti. E così cogliamo l'occasione per dire che ci terrai un diario settimanale nel programma della domenica che il professor Capuano conduce mirabilmente. Sentiamo la domenica sera. Diciamo già che sei convocato 18:45 e 18:50, domenica. presente. Senti, banale, ma la prima domanda non può che essere: come vedi questo giro? So che correrai in fianco al grande favorito, proverai ad aiutarlo a vincere il giro, ad insegnargli trucchi che magari ancora non conosce. Io credo che insomma, per te sia ancora una bella responsabilità. Sicuramente è una grandissima responsabilità, oltre che un grande onore. Abbiamo l'atleta più forte, l'atleta da battere, abbiamo sicuramente la consapevolezza di aver lavorato al meglio per preparare questo appuntamento, Contador e tutti i miei compagni, quindi siamo fiduciosi e cerchiamo di già da domani di affrontare questo giro nel modo giusto, curando ogni dettaglio, a partire proprio dalla cronometro squadra di domani, e il giro non lo vinci domani o domenica o lunedì, devi prestare attenzione tutti i giorni. Sembra un'analisi scontata, ma non lo è. Tutti i giorni bisogna stare molto attenti e cercare di non perdere tempo quando è possibile, di guadagnarne quando ce n'è, insomma, l'occasione giusta. Quali sono gli avversari su cui avete fatto il circoletto rosso? Gli avversari sono quelli che ormai da che mesi si conoscono. Se ne parla. Ricci Port, che è chiaramente Uran, è il nostro Aru, italiano giovane ma molto molto forte, lo ha dimostrato l'anno scorso al Giro, alla Vuelta. Quindi ogni squadra presenta un atleta per la classifica generale. All'inizio si cerca di così focalizzare l'attenzione su quelli che vanno meglio, ma poi bisogna comunque prestare attenzione non solo ai singoli, ma anche alle squadre in generale, che sono tutte ben attrezzate per questi sport. Duro secondo te questo giro o medio? I giri non duri non ne ho mai fatti, il giro è sempre impegnativo perché ogni giorno ci sono delle difficoltà. Le difficoltà i ciclisti non le trovano solo dall'altimetria, le trovi dalla conformazione del percorso, della strada, strade strette, le coste dove ci sono molte la strada molto tortuosa, il problema del vento, quindi ogni giorno il giro presenta sorprese. Diciamo che ci sono delle tappe dove il bollino è rosso dalla partenza, però tante altre tappe che sulla carta non sono così complicate alla fine possono risultare difficili, quindi l'atteggiamento è sempre quello davanti e cercare di proteggere il proprio leader, approfittare delle occasioni che ti presentano e niente, andare avanti giorno per giorno. Senti Ivan, ma questa prima crono 17 km mi sembra lunga per essere semplicemente un prologo, così per fare spettacolo e dare una prima classifica, cioè, ha già qualche indicazione dentro, potrà darla? Tra l'altro a me la crono squadra piace tantissimo. Quindi è una cronometro a squadre non lunga, ma comunque che può fare già una differenza tra alcune squadre, non grandissima, ma sicuramente una differenza ci sarà. Tutte le squadre si sono attrezzate, le squadre dei leader perlomeno, per avere una squadra molto forte, per permettere al proprio capitano di rimanere nei tempi dei migliori. E la differenza la può fare molto il vento, zona ovviamente ventosa sulla costa, quindi bisogna capire bene domani nell'orario di partenza come sarà il vento, perché un vento a favore può incalzare la velocità e ridurre i distacchi alla fine, un vento contro ovviamente rende la prova più dura, quindi le squadre più forti riescono a fare più differenza. Quindi sì, questo lo vedremo domani, perché sulla costa il tempo cambia continuamente. Ti faccio salutare da un tuo amico che come sempre seguirà il Giro d'Italia per Radio 24, Pier Augusto Stagi. Ciao Pier. Ciao a tutti. Ciao, ciao Ivan. Ciao Pier. Cosa vuoi dire a basso alla vigilia della partenza, Stagi? Guarda, voglio dire, io so che lui si è preparato alla grande, perché lui è un professionista coi fiocchi, può solo insegnare e il suo futuro è già segnato. Insegnare ai giovani come si fa fare corridore e soprattutto come gestire una squadra. Quindi questo è quello che io mi auguro e sono convinto che sarà un uomo strategico molto più di quanti molti possono pensare per il Giro d'Italia di Alberto Contador, che non essendo un fesso ha voluto con sé per 2 anni un corridore come Ivan. Lui darà il 100%, lo so, quindi non gli dico niente, incrocio le dita e in cuor mio io ho un sogno, non lo dico perché sennò Ivan mi maledice, però un piccolo sogno ce l'ho. Vabbè, te lo tieni nel grazie, cassetto. I sogni non si calpestano. Ho detto troppe volte in questi giorni. Bisogna rispettare i grandi corridori. Io ho un grande corridore. Io invece, soprattutto un grande amico. Io invece ho ancora una cosa da chiedere ad Ivan Basso. Una parola sul nonno, Petacchi. Cioè, a me fa venire i brividi. Petacchi è stato mio compagno di squadra. Lo so. Più di 10 anni fa. È un, credo, uno dei velocisti più forti della storia del ciclismo, è un atleta che ha saputo ottenere grandi risultati e l'augurio penso che il mio e quello di tutto il gruppo è quello che lui possa chiudere in questo Giro d'Italia vincendo una tappa a modo suo, e questo è l'augurio che io faccio personalmente ad Alessandro per quanto lui ha fatto per il ciclismo e soprattutto per chi lo conosce bene, e credo che Pier siamo 3 amici comuni, quindi può confermare quello che sto dicendo. È una persona fantastica, quindi merita questa grande vittoria. Grazie Ivan, ci sentiamo domenica. Grazie a voi. Un abbraccio Ivan Basso. Pier Augusto, Era agosto? Sei? Ma avete, mi avete fatto un regalone, tra una l'altro. Una carambata. L'inizio, l'inizio è fin troppo dolce, zuccheroso. Sì, adesso ci vuole un po' di polemica. Mi parlate di Ivan e poi mi nominate Petacchi, un altro che non ho nel cuore di più. Perché Alessandro è, come ha detto Ivan, fa parte di un ciclismo ormai datato, d'antan, e però voglio dire che sono convinto che Alessandro riuscirà a mettere la sua firma in questo ultimo suo giro, perché sarà il suo ultimo Giro d'Italia, probabilmente potrebbe essere anche la sua ultima corsa. Se tutto va come deve andare, Alessandro a Milano farà l'ultima volata, questo è il suo desiderio, fare una gran bella volata a Milano e salutare da grande campione qual è il ciclismo pedalato. Senti, intanto, dato che sei juventino, e dato che è una buona giornata, ti facciamo un'altra bella notizia. No, un'altra bella notizia da juventino. No, se hai impegni domani, se non hai impegni, puoi andare a vedere Juventus Cagliari in curva. Al giro. Puoi andare a vedere Juventus Cagliari in curva. No, al di là dello scherzo. Però siete spiritosi. La notizia è questa. La notizia è questa. Comunque io mi guarderò in bassa frequenza da qualche parte la partita, non credete. Ecco, allora la notizia è che per Juve Cagliari lo Juventus Stadium è completamente aperto, e questo perché la Corte federale ha parzialmente accolto il ricorso della Juventus e ha chiesto un supplemento di indagini, perché evidentemente non hanno ancora capito di chi era sta bomba carta, quella del derby Juve-Toro, e quindi fino al 22 maggio tutto sospeso, sanzione sospesa, e quindi Juventus-Cagliari si gioca con lo Juventus Stadium normale, interamente riempito normalmente. Avevano invitato qualche migliaia di bambini, adesso io non so che cosa ne faranno, se hanno altri posti, che cosa ne faranno? Se li tengono semplicemente a casa, e poi vedremo il 22 maggio, perché come voi sapete bene c'è stata anche la svolta recente, sono stati identificati 4 ultra in gran parte juventini, quindi sembrava tutto chiaro, ma mi pare di capire la Federcalcio abbia deciso di aspettare, perché è scottante la materia, perché comunque è la prima volta che per i bomboni veniva chiusa una curva, e forse qui i precedenti applicati diversamente stanno pesando nella valutazione di un ricorso. Torniamo al giro, Piero Augusto, come la vedi? Come la vedi? Tutto deciso a favore dell'ennesimo spagnolo. Io non ce la faccio più con gli spagnoli. No. Magari apparecchiato Platini anche il Giro d'Italia a favore degli spagnoli. Allora ti dico, se deve vincere uno straniero, Alberto Contador non ci va malissimo, perché lui adora l'Italia, non è retorica, lui viene spessissimo in Italia, tra l'altro vive a Lugano ma molto spesso da noi, frequenta gli italiani, ama la cucina italiana, cioè, è lo straniero meno straniero che c'è, tra l'altro è un corridore di grandissima classe, ha vinto 6 grandi giri, sarebbero 7 perché secondo me ingiustamente gli hanno tolto un Giro d'Italia, ed è per quello che lui torna, perché vuole ristabilire i conti, è uno dei pochi corridori al mondo che può vantare insieme a Vincenzo Nibali, Eddy Merckx, Bernardi, no, anche Tila e Cimondi la tripla corona, cioè, è un grande campione, è un fuoriclasse del pedale. Certo, parte coi favori del pronostico, parte con una squadra molto attrezzata, abbiamo sentito prima uno dei suoi tra virgolette gregari che si chiama Ivan Basso, uno che di Giro d'Italia ne ha 22, che aiuterà Alberto Contador, però la partita non è così scontata. Io credo che questo qui sia un giro difficile, duro, equilibrato, che obbligherà i corridori a inventarsi qualcosa, perché se aspettano l'ultima salita non succede nulla, portano in carrozza Contador. Quindi corridori come soprattutto Rigoberto Urán, colombiano che è arrivato negli ultimi due giri secondo, e lo stesso Fabio Aru sono chiamati inventarsi qualcosa. Sono chiamati a inventarsi qualcosa tutti i giorni, anche Ricci Porte, certo. Piero Augusto, con te ci sentiamo tutti i giorni, nel Giro delle Sette, appuntamento fisso. Non e poi tutti così, mi sembri dispiaciuto. No, mi sembra, sono felicissimo, come dispiaciuto. Sono felicissimo, ci sentiamo tutti i giorni all'interno di tutti i convocati. Ci mancherebbe altro. Ragazzi, molto bene. Ho scherzato. Mi raccomando. Ciao, viva Pierino. Il ciclismo, viva il giro. Ciao. Gabriele Prato, non ce la faccio, vero? No, Gabriele, chiedo perdono umilmente, non riesco a parlare con lei perché devo chiudere tra esattamente 17 secondi e perciò faccio in tempo solo a salutare Giovanni Capuano, con cui ci diamo tutti quanti appuntamento domenica ore 17 17-19. Giorgio De Luca il nostro autore, Daniele Bonamici in redazione, c'è Marco Ferronati in regia. Ciao a tutti, arrivederci ragazzi, ciao.